Diamo il buonasera in questa finestra dedicata oggi alla saggistica a un redattore, un corrispondente più esattamente della radio, a cui spesso e volentieri come Radio Onda Rossa ci si appoggia per le cronache dagli Stati Uniti e diamo quindi il benvenuto e un abbraccio a Massimo. Ciao, buonasera. Ciao, ciao, buonasera. Allora, il libro di oggi è Capitalismo Woke, di Karl Rose, come la moralità aziendale minaccia la democrazia. Ci interessava e ci interessa tutto quanto il discorso che verte intorno alla cancel culture, al wokeism, ne abbiamo parlato anche all'interno di Tabula Rasa più di una volta. Questo libro che si presenta in edizioni Farsi, io onestamente lo dico subito, ero un po' scettico visto la casa editrice inizialmente nel libro, pensavo a un'altra operazione completamente differente, invece è Karl Rove, un uomo che si occupa da tempo delle dinamiche del capitalismo, è un australiano e nel libro, in queste quasi 300 pagine, queste 300 pagine del libro che vedono anche la prefazione di Carlo Galli, fa tutto quanto un racconto, una spiegazione di che cos'è il capitalismo woke, anzi, innanzitutto del wokeismo, del capitalismo woke. E infine, perché secondo lui il capitalismo woke minaccia ancora di più del capitalismo futuro, o quello conservatore, se vogliamo, e la società in cui viviamo. Questo è un po' l'incipit, quello che ha portato alla scrittura di questo libro. Allora, che con Massimo, quindi ce lo siamo letto, andiamo a cominciare a fare un po' di analisi. Innanzitutto, quello del wokeism è un fenomeno molto statunitense, più che europeo. In Italia viene spesso sbandierato, soprattutto da destra, ma quando non c'è veramente un discorso da fare al riguardo, se non alcune dinamiche che vertono sulle piattaforme social. Però il wokeism non è un tema di. Sicuramente, beh, questo è importante da chiarire immediatamente sul libro. Il libro è molto, diciamo, centrato sul mondo anglosassone, quindi gli esempi che vengono presentati sono soprattutto, arrivano dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra e dall'Australia, dove appunto vive l'autore. E quindi dicevo, sì, lui diciamo si concentra su di, appunto il mondo anglosassone. Il libro si apre con un'interessante, diciamo, carrellata storica e una sorta di genealogia del termine woke, che come. Quella, poi magari la andiamo anche a raccontare brevemente, perché anche qua, no, la sospensione da parte, no, l'aver sottratto agli afroamericani anche l'utilizzo e il senso, il significato reale della parola woke. Certo, questo poi diciamo è un po' una storia che si ripete spesso negli Stati Uniti, dove appunto insomma termini che nascono nella comunità nera, una comunità nera che ovviamente ha un punto d'osservazione privilegiato rispetto a molte delle dinamiche del capitalismo. Quindi, insomma, spesso e volentieri ha senso che poi dei termini chiave per descrivere relazioni malate che nascono all'interno di un capitalismo spinto come negli Stati Uniti nascano proprio nella comunità nera. Comunque sì, diciamo la genealogia che l'autore fa parte da un articolo pubblicato negli anni 60 nel New York Times in cui appunto questo termine viene usato per descrivere quello che poi diciamo è il significato originale di quello che almeno molti di noi probabilmente pensano quando si parla di essere woke o di essere allerta o di capire o no, di essere in grado di capire alcune dinamiche che spesso e volentieri vengono nascoste da altri tipi di meccanismi per appunto distrarre le persone. Diciamo, il termine woke viene illustrato proprio per indicare l'abilità poi dei neri di capire il perché vivono nelle situazioni economiche e sociali in cui vivono, quindi di non farsi abbindolare dai politici, ma di ascoltare le persone che ti stanno dicendo la verità rispetto a il politico che ti sta prendendo in giro. Nasce quindi come un termine che si riferiva esclusivamente poi alle dinamiche razziali che diciamo spesso e volentieri avevano anche una si riferivano anche ovviamente a dinamiche che scaturiscono dal capitalismo, no? Quindi se poi andiamo a vedere la radicalità del movimento nero, anche se ci diciamo concentriamo solo su diciamo il periodo no, dagli anni 50 alla fine degli anni 60, che è considerato un po' l'età d'oro dei diritti civili, si può considerare qualsiasi, diciamo, esponente di spicco di quell'era, sono tutti persone che poi hanno messo in chiaro il rapporto tra il razzismo americano e il capitalismo. Lo stesso Martin Luther King, sappiamo che nell'ultimo periodo aveva mosso delle critiche molto forti, non solo alla guerra nel Vietnam, ma proprio alla struttura capitalistica del paese. Non è un caso che Martin Luther King verrà ucciso proprio mentre stava portando una sorta di supporto a degli scioperi che i netturbini neri stavano portando avanti da parecchie settimane. Quindi in generale, diciamo, il woke ha sempre indicato non solo una sorta di campanello d'allarme rispetto al razzismo e a come capire il razzismo negli Stati Uniti e nella comunità nera, ma è anche ha sempre avuto una connotazione anticapitalistica. Ovviamente quando questo termine è arrivato nel mainstream, l'autore sostiene che ha perso molto di questa carica, diciamo, rivoluzionaria, per così dire, ed è diventata una sorta di coperta che abbracciava qualsiasi tipo di un modo per identificare qualsiasi tipo di ingiustizia, da quella razziale a quella ambientalista, a quella economica, diciamo. E questo, secondo lui, è un passaggio importante per poi capire i pericoli che ci sono dietro a questa sorta di capitalismo woke, perché è proprio questo termine un po' annacquato che è arrivato nel mainstream e che poi viene abbracciato dalle multinazionali, in un tentativo duplice che è quello di ovviamente abbracciare un mercato più ampio, ma allo stesso tempo di poi rendere qualsiasi movimento dal basso che cerchi un cambiamento reale di bloccare quel tipo di cambiamento. E questo, se posso fare una parentesi molto veloce, secondo me è il grande limite del libro, nel senso l'inabilità di riconoscere questa dinamica di scontro tra diciamo il mainstream e le compagnie multinazionali e i movimenti dal basso, perché poi molti degli esempi che lui fa, le sue narrazioni nel libro partono sempre un po' a metà strada, no? Nel senso che per esempio i capitoli dedicati chiamiamolo wokismo ambientalista, no? Partono da Greta, no? Che poi figurati, è un personaggio importante e sicuramente è un'icona, soprattutto per le generazioni più giovani, ma è innegabile che il movimento ambientalista, senza le proteste negli Stati Uniti dei popoli indigeni contro la costruzione dei grandi tubature per portare il greggio attraverso le loro riserve o dimenticarsi delle proteste ambientalisti degli anni 90 o anni 80, diciamo, diventa difficile poi capire come mai poi alla fine un'azione individuale come quella di Greta ha avuto tanta risonanza, no? Poi certo si può discutere dei social media, si può discutere di come il linguaggio politico stia cambiando, di come i messaggi politici vengano trasmessi in maniera diversa, però diciamo Almeno negli Stati Uniti è impossibile non ricordarsi delle lotte molto dure che all'inizio degli anni 2000 le popolazioni indigene negli Stati Uniti per la protezione dell'acqua, per la protezione delle loro terre, eccetera, hanno riportato al centro della conversazione politica le questioni ambientali. Ecco, quindi nel libro secondo me manca un pochino la discussione di come e del perché il termine woke diventa mainstream. È la stessa discussione che si potrebbe fare sul perché certe conversazioni sulla violenza poliziesca si sono affacciate sulle pagine del New York Times, no? Certo, tu puoi citare l'articolo del New York Times dicendo questo è il momento in cui quella conversazione diventa mainstream, però senza parlare poi degli attivisti e delle attiviste nelle strade delle città americane ogni volta che un afroamericano veniva ucciso, è difficile poi anche immaginare come combattere il capitalismo woke, no? E infatti, secondo me, poi il libro manca un po' poi della proposta politica, no? Perché secondo me nelle pagine manca un po' questa attenzione a come certe questioni diventano mainstream. Non so se tu sei d'accordo su questa lettura. Sì, allora, nel libro, se, almeno parlo a titolo personale, se è convincente la ricostruzione che fa, l'analisi che fa, abbiamo lo spiega di prima, quello che anche semplicemente no, sulla parola wokeism, dove nasce il capitalismo woke, che lui tra l'altro fa tutto un racconto, comincia a fare riferimento agli anni 50, quando si affacciano i discorsi sul capitalismo responsabile e quindi no, un cambiamento di azione da parte del capitale, delle grandi aziende in maniera differente di quello che c'è adesso, non abbracciando i grandi temi mainstream, ma più cominciando a pensare al ruolo sociale che avevano le aziende, ma anche lì in funzione di un mantenimento, di un'autoprotezione. Allo stesso tempo, quello che lui racconta, no? E che su questo si può anche trovare delle linee di accordo. Che la tesi appunto no, che il capitalismo woke non è altro che un modo furbo per le imprese, per le grandi multinazionali, di assumere il controllo della democrazia, appunto trasferendo il potere politico che sono nelle mani dei governi, nelle proprie, e quindi facendosi portatrici per quanto riguarda le multinazionali di istanze politiche e quelle poi fondamentalmente legate intorno ai diritti. E non facendo altro che rafforzando se stesso, infatti il racconto che viene fatto e quello che fa viene anche provato con quanto il capitalismo woke abbia premiato, no? Finora stia premiando i grandi marchi che non hanno fatto altro che arricchirsi negli anni. Parte no, dal giocatore di football americano che aveva protestato per questo Certo. NFL. Perdendo no, qualsiasi contratto da giocatore professionista, a Nike ci costruì una campagna antirazzista realmente, però a Nike tutta la campagna antirazzista intorno a questo giocatore di football americano non ha fatto altro che incrementare il profitto andando a guadagnare molto di più negli anni precedenti e così stanno facendo un po' tutti quanti gli altri. Poi raccontano come si è diventato anche un po' l'impegno dei grandi capitalisti fare a gara a chi è più, Certo. come si dice, più generoso nelle energie e donazioni, donazioni che poi sono semplicemente una parte, una piccola parte invece dei profitti che fanno, grazie anche alle leggi che consentono questi profitti. E fa l'esempio, no, di alcuni che si sono schierati contro Trump durante la presidenza Trump, ma allo stesso tempo giovavano delle politiche nei confronti delle imprese da parte del governo Trump, così come è stato con il Covid, dove tutte quante questi grandi marchi che hanno abbracciato e abbracciano successivamente gli importanti temi e gli importanti diritti, quando è scoppiata la pandemia, tutti quanti ritratti hanno messo molto poco per quanto riguarda soldi, moneta, per quanto riguarda appunto le loro donazioni, e hanno cominciato a battere cassa i vari governi per le convenzioni statali. Certo. Lui va a raccontare in breve, e su questo si può anche essere d'accordo. Non sono d'accordo su quello che poi lui, forse perché anche mancano di quello che secondo lui sarebbe in questo momento più da mettere più allerta rispetto a quello ai danni che già non fa il capitalismo. Ed è interessante anche come racconta lo scontro che c'è all'interno del capitalismo stesso tra quello conservatore e appunto quello woke che si è affacciato negli ultimi 4-5 anni, tra l'altro. Sì, sicuramente. E anche per tornare a quello che dicevi tu, insomma, questa abilità di tracciare una sorta di linea storica che lega il capitalismo woke ad altre fasi del capitalismo americano. Devo dire che le pagine che lui dedica alla storia della filantropia dei ricchi americani della cosiddetta età dell'oro, quindi tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, e di come paradossalmente quel tipo di filantropia con quelle caratteristiche si ritrovi poi nel capitalismo, negli esponenti principali del capitalismo woke dei giorni nostri. È molto, molto interessante perché effettivamente negli Stati Uniti in particolare si vive molto questa sorta di dipendenza del mondo cosiddetto non profit dalle donazioni delle grandi multinazionali. E il mondo non profit va dal semplice museo all'associazione che fornisce servizi sociali reali nelle comunità più povere degli Stati Uniti. E in questo senso quelle pagine mostrano poi che cosa significhi il capitalismo woke in termini di dinamiche sociali, nel senso che giustamente l'autore sottolinea come controllando questo grande quantità di risorse economiche permetta poi al capitalismo di decidere quali sono le poi questioni che verranno affrontate in maniera consistente, anche se poi possiamo discutere sul reale impatto di alcuni di questi progetti rispetto ad altre. Quindi in questo senso quelle pagine erano molto interessanti e soprattutto per persone che magari non sono molto familiari sul mondo diciamo del non profit americano e anche inglese australiano, sono pagine molto, molto interessanti perché descrivono un fenomeno che secondo me in Italia ancora non è una sorta di nuovo livello di privatizzazione, no? Ritornando anche sul Covid, volevo sottolineare che il Covid, secondo me, è stato un momento molto interessante negli Stati Uniti, perché da una parte, come dicevi tu, ed è una battuta che gira spesso negli Stati Uniti, no? Che è l'idea che il capitalismo vive, no? I capitalisti vivono nel socialismo mentre il resto della popolazione vive nel capitalismo spinto, no? Perché l'abbiamo visto nella crisi del 2008-2009, lo abbiamo visto nel Covid, nel momento in cui c'è bisogno dell'aiuto statale, l'aiuto statale arriva sempre, no? Arriva sempre per le banche, arriva sempre per le multinazionali. Il Covid, secondo me, è stato un momento in cui l'americano medio e soprattutto l'americano, diciamo, di classe media che comincia a sentire le pressioni economiche di un capitalismo sempre più spinto, ha visto quanto in realtà uno stato assistenzialista può realmente fare la differenza, no? Nella tua vita. E questa cosa, secondo me, ha creato quello che vediamo oggi negli Stati Uniti, no? Quindi un'ondata di scioperi mai vista in decenni, uno scontro molto forte tra, diciamo, la classe operaia e, diciamo, i padroni, diciamo, e una cosa che secondo me non sarebbe successa in maniera così forte se non ci fossero stati questi 3 anni in cui improvvisamente si è visto che le risorse ci sono, che le risorse per darti l'assegno, per mandare i bambini all'asilo gratis ci sono, che la possibilità di avere stipendi più alti c'è. E quindi secondo me forse l'autore avrebbe dovuto dedicare, non trattare questa cosa del Covid in maniera un pochino più attenta per cogliere alcuni dettagli di che cosa sia successo poi in molte di queste società anglosassoni durante quel periodo. Ma sicuramente l'aspetto, diciamo, l'aspetto storico, la ricostruzione storica sono le pagine più interessanti di questo libro, perché, diciamo, in qualche maniera mostrano le differenze, le somiglianze tra quello che succedeva negli anni 80, quello che succedeva negli anni 50, quello che succedeva negli anni 20 e quello che i vari Bezos o Cook o la Apple o la Nike stanno cercando di fare adesso. Questo libro ha delle parti abbastanza interessanti e tra l'altro vanno ad affrontare un tema che è molto attuale, e nonostante io pensi che il capitalismo woke è un tema, è un problema, come racconta Carl Rogers, perché prima che si chiamasse capitalismo woke abbiamo raccontato per anni, no? Le operazioni di brainwashing, greenwashing delle varie multinazionali. Mo' è tutto quanto riassunto in quella parola del capitalismo woke, ma quelle erano le varie sfumature, i vari atteggiamenti. Lo fa anche all'interno nel libro, quando racconta, no, dei soldi investiti da Amazon per quanto riguarda i temi ambientali, quando Amazon è una delle multinazionali che più inquina al mondo, quindi restituisce soltanto una piccola parte dei danni, di riparazione dei danni invece realmente fa. Poi magari nelle strade italiane vediamo i furgoncini di Amazon che vanno a fare le consegne, ho scritto bello grosso che il furgone è 100% elettrico perché loro ci tengono all'ambiente. Questa contraddizione perenne che sono questi grandi marchi, infatti andrebbe e bisognerebbe di nostro a respingerlo, seppur qualsiasi tentativo quindi di appropriarsi di battaglie o temi che siano politici. Questo va fatto e va fatto sempre a prescindere. Però allo stesso tempo le soluzioni che lui in mezzo a bozza o che racconta, o ad esempio che sia molto più drammatico il capitalismo woke di fronte al capitalismo tradizionale, a me non convince fino in fondo. Il tema rimane sempre il capitalismo nelle sue varie sfumature. Questa è una, tra virgolette, nuova sfumatura. Bisognerà magari trovare delle nuove forme, però entriamo sempre nel discorso del capitalismo e dell'essere anticapitalista. Probabilmente non è un anticapitalista, però è uno critico, soprattutto per quanto riguarda la degenerazione del capitalismo. Almeno questa è la mia sensazione, leggendo il suo saggio. Sicuramente, e ripeto, i suoi esempi sono come sempre, sono esempi che ti colpiscono, perché quando vedi certi numeri stampati su una pagina, diciamo, è difficile ignorarli, no? Quando vedi che un Bezos dona 10 milioni di dollari quando in un anno ha fatto 10 miliardi di dollari di profitto, no? Quindi sicuramente sono cose. Sono pagine molto, molto interessanti. Lui fa anche secondo me, un buon lavoro nel presentare i documenti ufficiali che escono da, diciamo, queste sorte di organizzazioni sovranazionali, no? Lui parla tanto della Business Roundtable, è una sorta di questa organizzazione dei più importanti CEO delle multinazionali, oppure ovviamente racconta dei documenti rilasciati negli ultimi anni dagli incontri fatti a Davos, no? Nelle Alpi svizzere, eccetera, perché e confronta questi documenti più recenti con i documenti rilasciati dalle stesse organizzazioni negli anni 80, quando invece, diciamo, sotto la guida di Thatcher e Reagan abbiamo un capitalismo molto più spinto, molto più legato ai profitti degli azionisti, e lui individua in questo, diciamo, in queste 2 decadi, un momento di rottura rispetto al capitalismo un pochino più dal volto umano, soprattutto negli Stati Uniti degli anni 50 e 60. Anche lì, ripeto, sarebbe interessante aprire una parentesi sul perché poi quel paradigma del capitalismo umano si interrompe negli Stati Uniti, no? E se ricordiamo come Reagan, la campagna presidenziale di Reagan si fosse legato su alcuni stereotipi della comunità nera, no? La regina del welfare, no? In cui lui si è inventata praticamente questa storia su questa donna nera che riscuoteva, era miliardaria perché riscuoteva numerosi assegni di sussistenza, di disoccupazione, e sarebbe interessante poi mostrare ancora una volta l'elemento razziale, come ha giocato l'elemento razziale nel ridefinire il capitalismo, almeno negli Stati Uniti. Comunque, a parte questo, dicevo che è una cosa molto interessante vedere l'evoluzione di questi documenti e vedere come il linguaggio di queste organizzazioni cambia, perché come appunto accennavi tu, si coglie poi i meccanismi no, fraudolenti del capitalismo woke, no? Come se rileggi quei documenti tra le righe vedi come poi l'abbracciare campagne sociali sia un modo per rinvigorire i loro, no? Il brand della loro azienda, o aprire un nuovo mercato o diciamo aumentare i profitti, no? C'è l'esempio della NBA, c'è l'esempio della NFL, ma c'è l'esempio della compagnia aerea australiana, quando l'Australia ha votato per il referendum per riconoscere a livello costituzionale il matrimonio omosessuale, e mostra come poi appunto questo tipo di multinazionale si muova in quel tipo di campagne, no? C'è la discussione molto interessante dello spot della Gillette, in cui appunto dopo decenni nel mostrare l'uomo alfa, l'uomo macio che si rade, no? Una visione di una mascolinità molto tossica, poi improvvisamente la Gillette nel momento del Me Too esce fuori con una campagna con una campagna invece dove critica proprio la stessa forma di mascolinità tossica che aveva presentato per decenni, la mostra, no, a un nuovo spot che invece la critica. Ed è interessante perché lui mostra come in realtà la Gillette stesse passando un momento difficile rispetto ai suoi profitti. No, sappiamo tutto, gli hipster con la loro barba lunga avevano messo in difficoltà la Gillette, e quindi la Gillette ha pensato bene di praticamente ripresentarsi con questa nuova immagine. Quindi sì, ci sono degli esempi molto interessanti, ripeto, con dei dati anche che fanno sempre molta impressione sulle cifre dei profitti rispetto a quanto poi viene reinvestito nella sua società. Diciamo che il tema diciamo, principale del libro, c'è sempre questo ritorno alla una tassazione progressiva. Diciamo, lui è molto convinto che una ridiscussione del sistema delle tasse permetterebbe un po' di ricontrollare e di ricalibrare le disuguaglianze. Se posso dire, la cosa secondo me interessante che non viene poi discussa molto nel libro, c'è una sorta, per me, una sorta di critica velata a quella che, diciamo, almeno qui viene chiamata, no, la politica dell'identità, no? Identity politics, perché poi lui spesso sottolinea come il capitalismo woke abbia abbracciato un certo tipo di campagne sociali, no? Quindi la questione razziale del Black Lives Matter abbia abbracciato la questione di genere, la questione della comunità queer. Esatto, le parole di Rhodes vengono abbracciate tutte quante cause che però non mettono mai in discussione lo status quo di queste multinazionali, e quindi tutte quante cause che versano sui diritti, in questo caso di genere, di razza, però appunto nulla che vada a intaccare quello che non si parla mai, no? Di reddito universale, di salario minimo, di sindacalismo, non abbracciano questo tipo di campagne le multinazionali ovviamente. Abbracciano quelle come raccontavamo, che servono un po' a posizionarsi sicuramente politicamente sul mercato e anche bene Certo. sul mercato, né più né meno, facciamolo proprio breve, no? Penso che in questo caso l'attenzione verso una determinata causa, un determinato tema, e anche abbracciare quella fetta di mercato che parla propria, investendo su investendo lì, né più né meno, appunto, Bezos. Mette i soldi per il cambiamento climatico, ma non fa nulla per fare in modo che Amazon non si inquini Certo. meno. O i furgoni elettrici, vabbè. No, sicuramente. Quello che appunto volevo aggiungere su questa cosa è che poi in realtà spesso e volentieri le istanze che i movimenti dal basso portano avanti legate alla identity politics in realtà hanno sempre un forte connotato poi in realtà anticapitalista, no? Quindi diciamo che come sempre queste critiche velate a che tipo di campagne il capitalismo woke, penso sia sempre molto importante ricordarci che poi in realtà le istanze originali di qualsiasi movimento che ha portato avanti le questioni di identity politics le hanno sempre inquadrate in un quadro più ampio di critica al sistema capitalistico, no? E quindi poi alla fine no? Questa idea che poi l'identity politics sia semplicemente una questione performativa, secondo me non rende poi giustizia in realtà all'ampiezza, alla profondità dei movimenti che hanno portato poi queste tematiche nel mainstream, perché appunto secondo me il libro dovrebbe un po' discutere un po' meglio che cosa poi significa avere certi argomenti, essere riusciti a portare certi argomenti sotto i riflettori, no? Perché poi, se no, altrimenti secondo me si perde un po' la chiarezza sull'importanza di questi movimenti dal basso. Il capitalismo woke è una risposta a una mobilitazione dal basso molto forte, che negli ultimi, no, negli ultimi 20 anni ha cambiato molto nel mondo anglosassone, almeno a livello di discorso. C'è molto stata la discussione, no? Nel libro lui cita, no, Occupy Wall Street 2000, 2011, quindi siamo già no, al decennale degli anniversari. E secondo me è interessante che quello sia l'unico movimento dal basso che lui discute, no? Perché era un movimento prettamente legato su una questione della tassazione, dell'housing, no? E infatti ci sono state molte critiche. Al tempo negli Stati Uniti di un problema di rappresentanza all'interno dell'Occupy Wall Street, che era visto molto come un movimento bianco. fondamentalmente. Poi il fatto che sia diventato un movimento molto disarticolato, nel senso che poi ogni città aveva le sue tematiche, quindi poi alla fine attivisti di colore sono riusciti a inserirsi nell'espressione dell'Occupy Wall Street nelle loro situazioni e contesti locali. Sicuramente all'inizio era un movimento molto bianco ed era un movimento che si concentrava soprattutto sulla questione economica. E quindi, ripeto, è molto interessante che poi nel libro quello sia l'unico vero movimento dal basso che lui cita come un momento importante della critica al capitalismo woke, no? Il 99% rispetto all'1%, no? Quindi quello è stato visto come un momento di rottura rispetto al capitalismo che lui chiama, no, dell'azionista che aveva dominato gli anni 80-90. Quindi sì, insomma, volevo solo sottolineare questo aspetto una sorta di critica agli identity politics che secondo me invece dovrebbe essere trattata in maniera più attenta e con strumenti un pochino più sofisticati di quelli che usa lui in questo libro. L'identità politica, parlammo tempo fa, tempo a tabula rasa, all'interno di una trasmissione, andando a discutere proprio di un libro, però è vero, della scena europea e quella anglosassone, in questo caso si evidenzia parlando di mondi veramente molto diversi, e anche le dinamiche politiche accadute negli ultimi, ma anche se passi pensare agli ultimi 10-15 anni, si raccontano due mondi che vanno a velocità diverse e che hanno delle parole stesse, delle parole d'ordine differenti, che magari si incrociano, ma sono morte comunque da spinte completamente diverse. Abbiamo parlato finora di Karl Rogers e il suo Capitalismo Woke, uscito per Fazio Editore, sono 314 pagine, il costo è 20 euro. È un libro appunto che ha alcuni aspetti, come abbiamo raccontato, piuttosto interessanti, altri meno, non ci hanno convinto, però è una lettura tendenzialmente abbastanza piacevole, appunto, come abbiamo cercato di raccontarvi, fa delle parti piuttosto curiose e che magari potrebbero essere anche approfondite successivamente. Io vado a ringraziare Massimo, nostro corrispondente, nostro parlamento di Radio Onda Rossa, spesso e volentieri dagli Stati Uniti. Ci risentiremo tanto prossimamente attraverso la tua voce. Non so se volevi aggiungere qualcosa in chiusura, ci sarebbe tantissimi argomenti che si vanno a correlare a questi discorsi Assolutamente. della No. guerra culturale che c'è negli Stati Uniti da alcuni anni a questa parte, che è in atto, che spesso e volentieri viene agitata, no? È ridotta semplicemente all'insulto, è semplicemente del woke, è diventato un insulto di destra per dire una persona di sinistra fondamentalmente ipocrita. Certo. No, questo è anche sì. Questo è anche un altro aspetto interessante del libro, insomma, questa ricostruzione di come il woke va da termine diciamo, di sinistra con una certa identità politica e diventa l'insulto della destra conservatrice. Insomma, è una ricostruzione molto ben fatta e de descrive perfettamente poi il clima che si respira qui, insomma, soprattutto post-Trump. Però in generale, come dicevi tu, insomma, il libro è una lettura piacevole, soprattutto, ripeto, per persone che sono interessate a capire un po' meglio poi certe narrazioni che avvengono soprattutto nel mondo anglosassone. Perfetto, un abbraccio, a Anche a presto. te voi, ciao.